Cash Bit di Giulia Crivelli. Payoff. Renzo Rosso's Risky Hire of John Galliano pays off. Women's Wear Daily, anche detto WWD in Italia, il più importante quotidiano americano della moda e del lusso, titolava così qualche giorno fa l'articolo dedicato al rilancio di Maison Matteo Angela da parte di Renzo Rosso. La scelta di John Galliano, ex direttore creativo di Dior, come stilista del brand Margiela, acquisito dall'imprenditore italiano qualche anno fa, viene definita un risky hire, un'assunzione a rischio, che però si è rivelata vincente. To pay off, infatti, è un phrasal verb composto da pay, verbo regolare, to pay, paid, paid, e off. Si usa, soprattutto negli Stati Uniti, per indicare una mossa, un investimento, una scelta che sono stati all'altezza delle aspettative. Hard work and careful planning always pay off. Lavorare sodo e sapersi organizzare sono mosse che pagano sempre, diremmo in italiano. Ma c'è anche un significato più letterale. The collection company kept calling me for weeks until I finally paid off my debt. L'agenzia di recupero crediti, Collection Company, continuò a chiamarmi per settimane fino a che finalmente pagai il mio debito. Come sostantivo, payoff significa compensazione, liquidazione o pagamento da parte di un'azienda, non necessariamente lecito. Several Japanese officials were accused of receiving $12 million in payoffs from Lockheed for promotion of the company's sales in Japan. Molti funzionari giapponesi furono accusati di aver ricevuto $12 milioni dal gruppo Lockheed per promuovere il business dell'azienda in Giappone. Ma si può anche dire, Simon was made redundant last year, but after 30 years with the same company, he got a good payoff. Simon è stato licenziato, to be made redundant, lo scorso anno, ma dopo 30 anni nella stessa azienda ha ricevuto una buona liquidazione, payoff appunto. Off è una preposizione usata in tanti phrasal verbs. To pull off, per esempio, significa riuscire a ottenere. They seem likely to pull off another prize. Ci sono buone possibilità che vincano un altro premio. To get off è invece un modo non esattamente gentile di dire spostati, allontanati. I'm tired, get off me. Sono stanco, levati dai piedi, diremmo in italiano.